sono comprato qualcuno, o mi sembra ci vogliono 2-3 milioni di euro a comprarlo per ristrutturarlo, figurati, lui che cosa possiamo fare, o fanno qualche cosa per anziani, se no certo come c'è neanche lo puoi fare, quindi non puoi neanche fare il cambio d'uso. L'unica cosa è fai cavere per metterci quelli che dormono fuori, lui di luce ce l'abbia e un dormitorio comunale. La può copiare il comune, dove tutto la fa un dormitorio comunale, sì esatto. Fanno la cucina, che ne so che c'è, fanno i pasti, la gente povera va lì a mangiare, poi la notte va a dormire con un letto. E poi dove andate la figlia se ne va in giro. Che vita, mamma mia. Questa vita qui, proprio, non la vorrei. L'ostello là, come lo chiama? L'ostello degli anziani, dei bovaracci. Ce ne sono. Non so che ce ne sono, non dirò a me, ne ho visti parecchi. E ma tu non hai visto quello che ho visto io? Una volta in corso Trinitata, stavo passando, c'avevo mio figlio in macchina e mia moglie davanti, che si è messa a gridare, mi sono pure assustato, mia moglie, ah mamma mia, cosa è successo? Guarda quell'uomo! E c'era uno che stava mangiando la pasta asciutta dal cassonetto, cazzo. Ma fatto vedere, ma mi sono fatto di lacrime. Sempre questo potevi scegliere di comprarvi un chilo di carne ben cotta agli arabi. Poi che quelli sono abituati a fare queste cose, no, secondo me non le accettano per orgoglio. Questo non te lo so dire, non lo so. Comunque sia, la vita da barbone è brutta, ma non è perché lo scelgono loro, ce ne sono parecchi in Italia, le scelte lo fanno, no? per l'altra, perché sono, mi piace vivere così e basta. Poi, a chi è che piace vivere così, Antone? E a quello grasso gli dici, ehi quanto sei grasso, ma non ti dà fastidio essere così, e lui ti dice no, a me mi piace essere così, ma per non darti la soddisfazione, però vorrebbe essere magro, e così è quello lì, ti dice no, mi va bene così, però secondo me a chi piace essere sporchi, mal vestiti e tutto quanto, un po' di dignità la persona deve avere. Tu guarda Roberto per i capelli a vedere come è migliorato, da come era prima, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo, la giocare a pure in ambulanza e abbiamo dovuto attaccare gli aspiratori perché c'è altri fiducchi. Se tu lo vedi adesso non è tan bene. Cazzo, gli hai poco grasso, quanto è mi figurati. Ma dice che è bello il senso. Vino bene. Vino, birra. Lo faccio la pastura di Giuseppe fa. Lì a bere la mattina. Aiutami qualche cosa a fare un viaggio. Ma sta lavorando? Stava lavorando, intanto fa qualche giornata. Già si mangia, già la voglia di lavorare, meno quello. Capito? Poi adesso il padre sembra che è morto il padre, se non mi ricordo male, quindi vive con la madre. No? E magari non andava d'accordo con il padre, No, il padre già l'ha accolto in casa e quindi gli ha detto di tagliarsi i capelli e di essere tagliati. Adesso è bello, è tranquillo, Ma di buon cuore mi l'ha detto come ragazzo, è invidiato, la verità. E troppo stavo, Ma sempre così parla oppure lo faceva solo perché l'ha accolto? Sempre così parla, cazzo cotto, parla un bel veloce parla. A me una volta in bicicletta mi ha detto, dammi che cosa, ma fuori rubino la bicicletta che se non cammina. Ehi vabbè, a bere lui era. E allora? No, è tranquillo. Ma vedrai che c'è spiccio, No, di quelli non te ne chiede più adesso. Adesso va quando va al circolo beve la birra, fa quello che beve, fa, esce, ritorna, è sempre in giro, è morto. Ma morto, c'è uno scooter, c'ha appagato, vabbè, meglio che sia, diciamo, migliorato, quello dovrebbe lasciare perdere il bene, perché lui ha bevuto anche troppo. Cioè, già mangia, non ti preoccupare, la mattina fa colazione, si piglia 4-5 pasti lì. Ma dice che sanno bene anche di famiglia. Mangiami, perché io ho visto mangiare, si prende i panini la mattina. Non è che beve solo, il brutto è quando uno beve non mangia, invece quando beve e mangia la cosa è già cambiata. Ma interessante che lavori, io sapevo che stava lavorando la bandiera gialla, però non so se stia lavorando ancora. No, non c'è più di lì adesso. Non va da tu via. Però non c'era più, mi ha detto che ha finito le 6 mesi, avevamo preso, quindi finito il contratto e basta. Ah ecco, il gran letto di Italia. È tipico di me che aveva, penso che aveva 35 anni, non mi dico, forse 40, no? No, di più. No, ti preoccupare di meno di noi due. Sì, ma forse hai fatto che beveva, poi con quei capelli giganti arruffati, babba via. Ma c'è i capelli corti, cazzo, sono veri. È un'altra cosa, ma come li conosci? Ma così corti ce li ha fatti? Ce li ha corti. Sei allucinato. Entri a capri 2, non entri. Ma se non fa, è che se è un anno che non fa nulla lui, non fa più cucciù. Adesso magari avrà, adesso quando c'è il nostro figlio, io facciamo veloce una sveltina. Oggi deve essere qualcuno che ha tirato da quel film, come si chiama, quello con Leonardo DiCaprio. Ma vincia quella. Ma sapevi che Leonardo DiCaprio, ma che cosa, come si chiama Leonardo DiCaprio, quell'altro che piace, è gay, aspetta come si chiama. L'altro, come che Roll Bow? Cos'è Floscio anche quello, no? Sarà, no? Ehi! Cazzo, tutto quello che c'ha quello appresso, cazzo, anche lui fino a primo. I belli, lo diceva il mio professore, i belli sono fino a qui. Il Baedog. Cocco. E le belle sono le stiche. I vicetti c'hanno. Sì, vabbè, i soldi è quello, i vicetti c'hanno. Quello fa dei soldi. Quando c'hanno un sacco, quando uno c'ha in casa un bel di là, non sa cosa fare la mattina o la sera, mica se ne sta a casa. Se ne va in giro, o su ubriaco, oppure va a donne, di tutto, a trance, cosa devo dire che io? Di tutto usa. Ma hai visto i centri massaggi che non chiuso a Sassa? Ne ho visti 5, ce ne ho cinesi. Buone. E perché è andato così? Sì, sono andato gratis io, però. Ho portato la puntata elettrico, avrei sei tutto a posto. Era mai andati a mi fare entrare a me. Tutti cinesi, cocco. Sono attivo verso strada quella. Non legano con gli italiani, manco se ti ammazzi. Legano? No, non legano per niente i cinesi con gli italiani. Per niente. Neanche l'amica ti puoi fare, non solo l'altro. Perché sono fatti così. Sono una volta chiusa. Non è vero. Ah, io ti dico, siamo andati in quel ristorante cinese a mangiare. Da uomo. Lì. Siamo andati una greffa tra amici e amiche. Io ho un amico che praticamente ha a una pizzeria, o un ristorante pizzeria, eccetera, c'era anche lui. E ha parlato, stava parlando col padrone dei ristoranti. E lui gli ha detto che va alla pizzeria, ha detto è un discorso che si può fare, perché non ci vediamo, ha detto questo cinese, ne possiamo parlare, mentre ci sono città magari a aprire qualche cosa. Ha detto sì, sì, sì, si può fare, sono stati più di un'ora parlandone, ci ha offerto da me, la verità. Non c'entra niente quello, non andare più a fondo di quello, non dirlo a me Gianni, sto dicendo io, non ti puoi aprire più di tanto, anzi loro non si aprono più di tanto, il discorso è quello, quindi cioè, finché è roba di lavoro, tanto quanto, ma quando è altra roba non si aprono, sta tranquillo, non è una amicizia così, che tu vai a casa sua, loro vengono a casa tua, no, scordatelo. Ecco, la ragazza del cinese veniva sempre a casa tua, cosa aveva? La mandava. Ma veramente veniva a letto che gli faceva stare con le persone che erano cinesi, per esattezza. Hai capito? È diverso quello di Fefe. Fefe era proprio era un bel aperta come ragazza, però il padre, i fratelli, quando andavo a parlarci, no, devo fare cosa? Diceva dove la negozio, ho capito, quindi non ti dava la vetta per niente. E magari era la singola persona, così non è che c'erano tutti quanti così, no? Io ho anche un'amica che lavora con i cinesi e addirittura la principale l'ha portata in Cina a trovare, a farli conoscere i genitori, eccetera, eccetera. È stata 15 giorni in Cina. Beh, comunque, non lega, è molto molto difficile, te lo sto dicendo, per come li conosco io, guarda che io ho amici cinesi, ne ho, perché con Subito il Manuel, grazie a Dio, c'erano 3-4 negozi, neppure più di tanto non si allargavano, te lo sto dicendo, quindi, per come li conosco più io, guarda, forse l'unica è la festa che si apriva parecchio, con gli italiani, ma... diciamo i fratelli anche la papà e quelli erano chiusi come un riccio, capito? Da loro sì, un discorso diverso, però da cinese italiano non creerà molta confidenza, amicizia forse sì un po', ma non te credere, confidenza proprio non le puoi prendere con loro. Un carattere duro così. No, carattere strano, cioè, sono chiusi, capito? Non deve sapere nulla di loro, cosa fanno, cosa non fanno. Dopo chiedere un favore, per dire, io ci andavo tutti i giorni a comprare da quello in cui si abita del Manuel, beh, gli ho chiesto se mi poteva, detto, guarda, mi sembra un favore, non è che puoi ordinarmi questo, no, mi ha detto, no, non te lo posso fare, mi ha detto, capito? Quindi... No, non viene fatto nulla, magari se avessi avuto prezzi a fianco, avrebbe detto forse capace di aver dilato il prezzo, per dire, però se chiedo di lui, non te ne fanno di favori così, anche a pagargli per dire i contanti subito, non te ne fanno. Perché loro praticamente c'è un giro di mafia, di cosa, non devono far scoprire nulla, capito perché? C'è la mafia cinese che li dirige. Sì, vabbè, quello li uso anch'io. Loro in pratica non sono padroni dei negozi, il padrone è un disastro molto grosso. Quindi non ho fatto che passare li prende quello che deve prendere, gli dà la merce lui, e allora gli dà solamente un tanto e basta al mese, non gli dà altro. Poi vedo che incassa tutto lui in Cina. E lo userò per scopi mafiosi. Che ne lo so. Proprio così. Comunque ci hanno detto che i cinesi qua non muoiono mai. E forza cazzo, che vanno a sparire qua. Il documento di identità loro passiamo all'altro, non mi cazzo la dico, sono tutti uguali. Una volta si era buttato un ragazzo dall'albergo che c'è vicino alla piazzetta lì. lì è pieno, abitano tutto lì, abitano, è matto oggi addirittura all'ultimo piano, lì alla piazzetta. Oh, e allora, Alvedusi, in più piano terra di fronte alla, come si chiama, la, dove c'è la scuola, c'è una biscatella destina, c'è. E giocano a con una specie di davetti, come cazzo si chiama quel gioco speciale cinese, e scommettono. Ma sorge se cinese? Sì, allora, voi. Kappa. Shanghai, no. Qualcosa gioca, andate. Non mi ricordo come si chiama quel gioco, sono dei davetti. Adesso non mi ricordo come cazzo si chiama quel gioco, la verità. Comunque, stanno invadendo tutto, cinesi, negozi, di tutto. Sì, lo sai che ogni cinese, io non ho mai visto un cinese con la macchina piccola, tutti con forza adesso. Figura, se non comprano di Fiat, no, 500 o cosa del genere, tutti con forza quelli SUV. Sono macchine grosse per portare la merce, la domenica arriva ricaricando i pacchi da una parte all'altra, arriva il camioncino e scaricano la parte, capito? Tutto nulla. Sì, se ragiono che va la finanza nei biliardi da... Oh, non mi tocca la finanza, non ti preoccupare. Tu lo dici? Noi a Palazzo avevamo dato in affitto il negozio dove eravamo prima noi, no? Poi abbiamo costruito uno, un centro commerciale e quello l'abbiamo mollato e l'abbiamo dato in affitto. Beh, come hanno aperto la finanza è andata con due camion grossi, sì. Hanno cominciato a caricare roba e hanno sequestrato tutto. Io non so che faccio tutto questo danno, terzo, poi, un euro. Le luci di Natale le avevano prese, era il periodo di Natale, le luci di Natale perché erano fuori legge, avevano la spina a due invece che a tre con la massa a terra, poi c'è la roba vestibile, c'è la roba marchiata, c'è la spetta navigare, roba... Io non so, aspetta un attimo, arrivo subito. Navigare la prendeva a Vacco, te la ricordi la roba navigare che era un bel di marco? E se la fanno loro, perché già lo sai che i capisci i pantaloni quello fanno loro. Una volta che ritrovano l'appalto, per fare quelle cose devi fare tutto, no? L'originale. È come se tu dirai la struttura per fare le monete. E capisci, fatemi le monete, quanto volete per ogni moneta, per dire, un centesimo. Una volta che trovo l'appalto, la roba rimane a loro. E loro continuano a fare monete. Tu dicono che non è roba originale, ma è roba originale, sì, hai capito. Quello che voglio dire, quindi è inutile che si lamenti l'Italia che è roba tarocca, non è taroccata un cazzo, perché è roba che te li danno di italiani a fare, hai capito? Di tutto li danno. Ma che cazzo, io ho preso un paio di dice per la e quelli che me lo vedo lì che vedi che si è passato, dove le ha comprati dalla Rinascente, ok, capri 2 a capri 3 7 10 residenti, cose combinate ora c'ho una fettola addosso, non ho idea, cazzo, io a cazzo dicevo, io c'ho questa cosa secca, ma ne stavo facendo gli occhi. Per due volte mi ha fatto mancare il respiro, anche stanotte, mi sono dovuto alzare a bere l'acqua perché sono crepato. Io ci vorrei due settimane così, con la tosse e con la detto, tutto l'asfalto delle sigarette, sto prendendo. Sì, avete questo balsamo che è miracoloso, dico la verità, un balsamo che avevamo comprato fuori a Torino una volta, è una scatoletta piccola piccola rotonda, e costava, allora mi pare costava 18 euro, però è micidiale, quando c'è dolore se lo passa appena appena, è forte e ha l'eucalipto, una cosa del genere, come te lo passi, ti fa passare il dolore subito, se me lo passa con il petto, se mi ha fatto, diciamo, mi ha liberato tutto, E' meglio così, si vuole ancora in casa, quindi sono 2 settimane che non si alza dal letto, sto facendo prato, cena, pulendo in casa, eccetera eccetera, figurati. Non riesce a, cioè addirittura a ricattarlo, che non è idea, è già quasi 2 settimane, quasi a letto toccato. Andiamo al volo, è un'influenza un po' strana, eh. E poi dura anche parecchi giorni, perché Emanuela, mia figlia, se l'ha presa a Capodanno, infatti non abbiamo potuto far nulla, siamo stati a casa, ed è durata 5 giorni l'influenza, prima ci aveva alta, proprio a 40, 39,9, poi piano piano si è abbassata a 38,8, così poi è passata del tutto, però tanto ha fatto il suo corso, Sì, io lo so, io lo so. Tu figurati, io per la freddore mal di gola e cosa. Mi sono fatto 4 giorni a letto, mi sono fatto. Alla fine mi sono girato i coglioni da auline, da tipine, da guaggio, alla fine mi sono bevuto 4-5 lattine, da che mi è passato tutto, mi è passato. L'unica cosa mi è rimasta per la pelle freddore. Io ho bevuto latte col miele mille fiori. E quello gli ho già dato a Simona già 4 giorni, che io il miele è micidiale, perché ti fa sudare, no? Perché ti scalda. E ma il latte lo devi fare caldo, E bollente glielo ho fatto, non ti credere il latte, mica glielo ho freddo. Bollente glielo sto dando. E allora li bruciugolo adesso. Quindi piano piano fa quello adesso. Paga, paga, no, troppo caldo, no, una via di mezzo. Io l'ho presa stamattina, mi ha fatto bene, poi però verso tardi ho cominciato con questa fossa secca, mamma mia, il negozio, stavo al collega, a un certo punto sono scappato in bagno, infatti mi hanno seguito per vedere cosa mi era successo. Gianni, ma stai bene? Sì, mi sono chiuso in bagno, mi è bevuto acqua al rubinetto perché stavo per crepare. Caramelle alla monta devi comprarti, ti prendi le caramelle e te le succhi fino piano e ti passa. Sì, Antonio, io manco quello posso fare, perché sono diabetico e caramelle non le posso prendere. Ehi, cazzo, le poti davvero, sì. E se non l'avrei fatto. Ci vogliono caramelle senza zucchero, se ci sono furti senza zucchero va bene, ma prima prendevano le pastiglie Valda. Nello specie sono le caramelle senza zucchero, l'ho prese io ieri, sono alla menta, ma buone, cazzo, sono ma belle veramente sono. Io dello specie prendevo le caramelle alla liquidizia, era una forma di giuggiola, come le goria, cazzo, erano così buone, c'erano le migliori che io avevo preso in assoluto, ne ho provato tante e non mi piacevano come quelle lì, poi non le hanno più ordinate. Comunque io sto dicendo, le ho viste ieri, la bellea, senza zucchero alla menta, ci sono, e un pacco da 3, addirittura, sono 3 astucci lunghi, sono caramelle tonde, insomma, sono bianche sopra e al centro c'è la menta. E ho capito. Già sono, già fanno bene quelle lì, però nel momento poi ti basta tutto. No, non è vero, a me la verità, io ho succhiato 3 o 4 e sono a posto io, sono più tosse. Ma magari è un caso, dai. Non lo so se è un caso, l'ho rivolto. Magari ti ha fatto bene la birra. Niente, pensavo che aveva fatto bene la birra. che io avevo mal di gola prima. In pratica il mal di gola mi è venuto perché ho mangiato roba bollente e poi ho bevuto l'acqua, che era fredda, capito? Quindi mi ha fatto mal di gola così. Con la lingua cominciato a freddore, eccetera, eccetera, e quindi a un certo punto non ci ho fatto più, non potevo andare a letto, mi era fastidio. Allora, io prendevo, uscivo, ma era la stessa unica cosa, perché non mi sono bevuto per l'attesa, e mi è passato il mal di gola. Forse come ti cuoci non sei ancora di più. Niente, ti cuoci domani con te l'attesa, già. No. Poi. È acqua così? È acqua, sì. Però ha sapore di birra. Acqua di birichinzo, eh. E comunque l'altro giorno ci ho visto tutto carico di birra tornando dallo spizzi. Quindi è un grido. Quindi c'è la birra per il fratello, ho preso. Ha fatto le sigarette. È già una settimana che non esce lui, perché c'è mamma che sta dando i numeri. Sta cominciando a avere le allucinazioni adesso. Dice io che ha visto una pecce lei che era addormentata al fianco a lei. Ho visto una. Una tipa di tica lì, ha detto che ha visto. Ha diventato a fianco a lei. Sì, sì. La madre di questa amica mia aveva le allucinazioni dello stesso così. E sentivo odore di bruciato da tutte le parti. Diceva che c'è odore di bruciato quando non ce n'era. Mi ha chiamato ieri sera. Anzi, stasera mi ha chiamato ieri sera. Mi ha detto, guarda, beviti il latte che è meglio, l'ho detto. Senz'altro che sono le pastiglie che hanno fatto male. Anche perché lei adesso non è che mangia spesso, capito? E beve spesso. Quindi, siamo fatti gli anziani, no? Devi stare appresso, devi stare a dire, ma hai mangiato? Magari ti dicevi sì, invece non ha mangiato un cazzo, per dire. Nemmeno bere, non sentono nemmeno il bisogno di bere, mio padre lo stesso, non beveva nulla, se non stavi appresso, beviti un bicchiere d'acqua che ti fa bene, non ho voglia, ma non devi guardare la voglia, devi bere. C'è così, infatti, 44 anni cosa vuoi di più? Sì, mio padre ne aveva 96. Non bevono, non mangiano per età, perché così, hanno meno appetito e meno voglia di bere acqua. E anche gli animali sono così. C'è la tizia, il mio gatto, che quando è invecchiato mangiava poco poco, beveva poco poco, quando camminava barcollava, poveraccio, e non ce la faceva nemmeno più, poi per la pena se ne fanno dello fumo. Figurati. E il gatto è intelligente. Tu pensa che quando io mi sono accorto che non stava più mangiando, ho preso, siamo andati con mia figlia e con il ragazzo di mia figlia, siamo andati dal veterinario, l'abbiamo portato lì, gli hanno fatto un flebo perché dice che era disidratata, hanno fatto questo flebo, poi gli hanno fatto un altro di glucosio, e sembrava che si fosse ripreso, sembrava arzillo. E io dovevo andare a lavorare, gli ho detto a mia figlia Manuele, guarda, pago il veterinario, poi lo ritirate voi e lo portate a casa, mettetelo subito a riposare. E vabbè papà, non ti preoccupare, io devo andare a lavoro. Quando sono tornato a casa, il gatto aveva pisciato tutto il flebo che gli avevano fatto. E mi ha detto, guarda papà, si è fatto la pipì addosso. E gli ho detto, magari non sta bene. L'ho preso in braccio, Antonio, come l'ho preso in braccio, ha tossito ed è morto. Fotografia. Vedi qui, ti mando, ti va bene. Ma che se vediamo gli pigli rossi. Cavagallo. Oh yes, that's right. Ma quello che ha mandato ieri, a chi l'avevi mandato? Non me lo ricordo. Che ti ha detto che gli faceva trovare. Ah, a Luca l'hai mandato. A Luca, esatto. No, ma già vado da amica mia, io per quello vado a gratis. Mi fatto succede il motore e gli faccio la stampa del coso. Ci vuole la leggerosa? No, perché dovrebbe essere leggerosa? C'è frino. Ehi, accidenti, per fare un lavoretto ci vuole molto, 10 minuti sono. Muori libero. E allora? Affagato. Boh. Perché è un rapporto molto libero, eh. Ci mettiamo le corna a vicenda, io sono questa cosa partendo con la parabola e sintonizza il canale, invece lì mette il ricepitore. Ah, va bene, ci va bene. Capito, tanto è bellina, mi piace, è una bella stazione. Anche quell'apparato, beh, c'è quello grande che è bello, è bellissimo. Ma mi piace anche quello che c'ha la KP2. Aspetta un attimino che sono... Ecco, scusate, stiamo facendo delle prove. Stavi dicendo già che cosa? Ho detto prendimelo con l'apparecchio piccolino. Ma quale vuoi, il 707 o il 706? Chiarissimo, quello che è stato KP2. Quale? Non ti sto capendo quale però. Il 728. Allora, quello che tu sei in basso sulla sinistra avanti a terra. In basso sulla sinistra tu stai parlando dello Yaesu FRG 1000, FRG 100. Esatto, quello lì. Quello lì, secondo me, se metti un bel microfono va bene. Sì, è una figata, considerando che è uno scanner in ricezione, solamente usando in inglese il microfono. Ma non c'è vittoria già quello. Oh, non ha capito quello che sto dicendo. 728. Claudio, quello che ha provato stamattina, ieri sera, eccetera, eccetera. Non me lo ricordo come si chiama, è un Yaesu, ma non sto dicendo, il ricevitore è quello tutto a sinistra. Poi poco prima del ricevitore c'è quello. Tu stai dicendo questo? Questo qua è, non è Yaesu, è Icom. Ah beh, Icom, quello lì. Non sta vendendo. Cosa te ne fai? Ce l'hai già tu la FF? A caputi. Non è una FF. Ho venduto il mio. Questo è al pari di un 140. Forse, non lo so poi tecnicamente se ha qualcosina in più o qualcosina in meno. Però come vedi tira abbastanza. Poi non so, abbinato a un microfono, adesso gli abbino il MC60 e vediamo un attimino come va. Fammelo sentire, dai. Ma ce l'hai già con le attacchissime? No, negativo, quello mi manca, li faccio fare, cioè lo vendono già fatta la, come la cosa, l'interfaccia per interlacciare da KV da a coso a Icom, però non ce l'ho, ma la faccio fare da Fabrizio, non c'è problema. Andare Claudio, la panza. Ho mangiato 3 giri di frittelle, mamma mia. Ti serve, ma ti serve da Ico, ma che in fondo, si è messo male. Io ce l'ho da Ico da Ico, perché uso l'SM20 sul K, mi riesce molto bene. Ocla. Oh. Come se lo mangiare frittelle, viene il 3 di febbraio. Mentre volte me l'ho qua, c'era la riunione condominiale, e fanno la pentolaccia qua, non qua, lì, una chiesa che c'è di fronte alla casema Gonzaga. Ma io non sono più notturno, io mi sono ritirato dalle feste, capito? Scalla, devi stare abbassando, facendo con il mio 430 20 watt, lo spengo 20 watt, lo riaccendo 20 watt, mamma mia, cosa vuol dire essere da due conversioni a tre conversioni, anche il 728 è due conversioni, Crod, Gioco. Gianni. Ehi, scappa grabbia. Che c'è, si può sapere che c'è. Ti spiego. Comunque, bellino, come estetica mi piace molto, perché non rimane grande, poi è nero. La mia stazione ci va proprio bene. A me il 140 mi piace, ma il colore no. Cosa c'entra il colore? Ma se funzioni, non ho capito il colore. Cioè, perché il grigio ti dà fastidio. Perché c'è stato, non è grigio lo stesso. Il 440 non è grigio. Forte di me, buco. Io c'ho tutto meno qua. meno. E ti stavo dicendo, anche lui che vuole la sua parte, c'è poco da fare, a me mi deve anche piacere, ma perché non solo funzionare bene, deve anche piacere. Per dire, ci sono degli apparecchi a me che anche se vanno molto bene non piacciono come estetica, però è sempre una questione di persona, eh. C'è quello che si accontenta, io invece a me mi piace anche fare l'apparecchio che mi piace di fronte a me. Io ti ripeti 101, anello di colore, c'ha di display rosso e c'ha 100 watt d'uscita, qual è il problema? Se c'hai 300-400 euro a parte te lo prendi. E come te, tu usi l'astro rosso, a me l'astro rosso non mi piace, se non lo metto nero, addirittura non lo sto più usando il nastro per fare le aggiunte delle cose, uso la guaina di quella come si chiama? Vabbè, quella che si scioglie, insomma, adesso non mi viene il nome. Non lo uso più nemmeno quello nero, invece tu lo usi il rosso, mi fa morire quel nastro rosso a me. Ripreso. Ok. Guarda che da rosa a nero non cambia nulla, quando c'è il nastro vede visuale il film, va bene quello che c'è, anche bianco, il cazzo c'è da quella. In quello momento diciamo che rosso ci ho messo il rosso, adesso uso il nero per dire. E poi non so neanche se più usare l'altro isolante, la verità, uso solo per i cavi elettrici e basta. Più che altro uso quella... lo scotch. Questo è un dosso per i capi e basta. Lo scaldi con l'accendino, vabbè. E anche più grosso di quello che fate che c'hai tu, di diametro. Lo uso per i tubi, per fare giunture dei tubi. E basta. E un mezzo neanche dovrebbe essere 3-4 mm di grossezza e va benissimo per il capo del microfono. E tu lo sai se cosa c'è lo grossissimo? E io sono dovuto attaccare in culo questa cena che fa quella già lo sai di che cosa. Aspetta un attimino che mi stavo... Aspetta. Assurdo, c'è una signora... Aspetta. Riprendo fra un attimo che sta succedendo un casino. Ecco. Ciao Fabrizio da questa parte. Ascolta, Claudio, ci sei? Comunque era qua 5 minuti fa, poi marito. Ciao Fabrizio. Ciao, ascolta, dimmi una cosa, da questo passaggio qua dimmi se sta aumentando la modulazione. Guarda, sta aumentando qualcosa, sta sempre aumentando. Sì, però il segnale è basso, l'ho capito perché. Aspetta, io mi brucio tutto qua. Ah, è vero, adesso ci sei Fabrizio, adesso ci sei tu. Sta aumentando, però mi ha fatto un po', ma sai che tempo c'ha, quando ho accettato qualcosa, piglia e sparisce il diwatt, come è successo a me un giorno, mi sono creato sotto, grazie, vabbè grazie a Zoya, grazie, quando ho funzionato la vento, ho contato e sparito di diwatt e mi sono creato sotto, ho lasciato la fredda di partito, grazie. No, ma qui, aspetta, qui non è il problema, no, qui non è un pingudo questo. Quello che ci sto parlando, che di solito un tempo diciamo quelle, anzi non è un difetto, è un pregio perché altro, e quando va in tilt scende a 40 a 0 nei finali, meno male, nella protezione. Anche questo baracchino dovrebbe essere protetto, se dopo iniziava a piangere. Stavo facendo una prova, ma avevo il selettore dell'antenna. Scusa, io qua. Aspetta, fermo un attimo. Non sto sentendo bene Fabri, però. Sì, aspetta. Chi è? Mi chiama? Allora, sono il facendo un baracchino, a vedere come andava. Come andava questa modulazione di questo baracchino? Va benissimo, va benissimo, io provo a volare. Ma poi non lo posso fare. Ma prego. Sì, un po' crepato invece. Sì, siamo troppo vicini. Ti ha messo il coso, sei sotto l'attenuatore, non sei a fondo scala, sei ai 40. La modulazione è un po' trappata. Prova Fabrico, la sé. E perché c'è Capri 2? Ehi, si aspetta lui, se tutta la sé. Ah, questo è un baracchino. Stavo provando a vedere come usciva il radio. Capito? Volevo vedere, ero curioso. Giusto per fare, volevo vedere come usciva il radio, perciò questa radio la stavo provando, ma in AM ho visto che potevo aumentare un po' di modulazione dai menu e quindi stavo provando a vedere come andava. Per me è perfetto, Fabio. In confronto al Kenwood come va? Diciamo che la radio è abbastanza spinta e non pensare che sia... Secondo me più o meno sono uguali. Il Kenwood forse un pochino di più, ma questo qui ti si addice anche la modulazione, tutto quanto. È una bella radio. Ce l'hai internet? Cosa? Quella c'è internet davanti? Sì, ce l'ho. Lo devo accendere l'apparecchio, però ce l'ho qua davanti. No, così ti dico la marca del baracchino e vedi se ti piace. E dimmela. La scrivi Yaesus FT 9000D. L'ho già visto. Baracchino, che c'era. Meglio così, no? Cappa, è poco e lungo. Sembra un tram, sempre. L'hanno fatto un po' troppo grande. E dove l'hai messo Fabio? E dove l'hai messo? Mi ha fatto stanza. Diciamo che per le creature che ci sono dovrei cambiare veramente stanza. Sì, Antonio, ti faccio vedere tre microfoni come li ho fatti e poi mi dici se come sono. Ma tu ce l'hai WhatsApp? Aspetta che ti mando una foto, guarda, ti faccio vedere al vivo. Sono tre uguali, Ma è Chevrolet? No. Tre Turner ho rifatto, ma se li vedi sembrano usciti dalla fabbrica. Vernice è uscita come originale. Cappa. Grigi. No, questi sono quelli neri, i super sideri, sideri, cromati neri. Poi faccio una foto e la mando al Grod, e poi però devo andare, oggi prendo Colbert. Avanti, Capri 2, com'è così tardi? Ti abbiamo chiamato 100 volte. Lascialo stare, lascialo stare. garanzie. Saluta con la buonasera. Leoncino, buonasera. Prendi già. Il capello lo faccio abitare, insomma, buonasera anche a Leoncino. Ciao Gianni, CAP2, buonasera. Buonasera. Chi è? Chi è? E chi può essere? Il più forte di Sassari. Gianni Capri 2, la massa 300. DGD ci vuole, non ci vuole bicarbonato come dici tu, ci vuole il mazzo, te ne compri una bottiglia, costa 10 euro e 50 centesimi la copre e te la metti a casa. Ti basta un bicchiere piccolino, dopo che hai mangiato sono già a fare giri, ti butta per la pena di quello e ti sblocca subito. Tanto se vai a cosa al circo ti costa 2,50 il bicchierino, quindi a me lo risparmio un po' di soldi. Ecco, ha fatto via, lui. Per carità. Saranno per me che mi abbia salutato quella persona o Antonio. Vabbè, ti ha sempre salutato, la verità. E come hai detto a me, sei tu che non rispondevi, quindi lo so, magari andate d'accordo in seguito, all'interità. Ma se di sotto lascia di guerra, c'è problema. No, non me la frega niente, bisogna che sia tranquillo lui, moduli, tranquillo, io non lo sto cercando, non mi sta cercando, amici più di prima. Ma parla bene, capite, se no vengo lì ti piglio per il bavero e ti prendo due schiaffi, ma forti pure. Ciao Fabrizio, imbarrato. Ciao Fabrizio, occhi di gatto, buonasera. Buonasera, ben sentito, no? Io sono ripassato qui, ero sul canale Vintage per salutarlo e sto andando a letto, per una questione di educazione. Sta a posto, sì. Quello che ha posto, a posto. Chi ci è rimasto? No, ho fatto soltanto un attimo Antonello perché dovevo parlare di una cosa e giustamente ho fatto spostare, sono sempre sul 5 loro. Bambu, io allora vi saluto, scendo giù e saluto anche lì, buonanotte. Ciao Fabri, buonanotte e ci sentiamo presto, dai. Ciao Fabri, ci sentiamo, buonanotte, alle prossime, sta bene. Bye bye. Avanti Gianni, ma Gianni. Dimmi, già sono qua, si ascolta. Ah, sì, quasi. Allora siamo a posto, già hai sentito. Ok. Io bisogna che mi faccio controllare perché allora, non lo so, mentalmente, cazzo, devo essere un lupo io. Ho pensato a te e sei apparso tu, cazzo. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao Claudio, ben sentito dopo una marea di tempo, Allora Giuseppe, mi stavo ascoltando, avevo un Fabrizio, stavo facendo delle prove sul canale 20, ha detto ma non vai più vicino, ha girato, e ho sentito Antonello qua sul... Cos'è questo? Canale 14, mi vai, uscire. Stavo raccontando la storia di quello che ho pagato. Ragazzo stamattina 280 euro di bolli e cazzo mi sono usciti i soldi di quella cosa che ho venduto quanto cocca. Bene Giuseppe, casino, tocca sempre a pagare, sono venuto da là, tocca sempre a pagare, va bene, ok. Antonio non c'è più nessuno, Antonio. C'era Fabri, si è andato a salutarmi, la verità, dove poi stava salutando sul 5, perché io Giuseppe eravate sul 5. Stavo, non so, se è vero, io sono vero, la verità non lo so. C'è Gianni comunque perché ho avuto la palettura della Madonna di Ludo, poco due secondi fa, e poi c'erano avanti Giuseppe, invece mi ha detto avanti Gianni, e l'ha passato Gianni. La lampada di Aladino. Frigia della mela granata. La sto già ne appasso. Siamo tutti noi. Vabbè, io dividiamoci allora, non lo so, c'è ancora da chiacchierare con Giuseppe, dobbiamo dirci le cose sue, spostatevi, e non stiamo tutti qua a fare ciabotto. Ciao Ciao Giuseppe, ti saluto, fate la buona, alle prossime. Mi sposto un attimino e poi me ne vado a letto perché domani mi devo alzare un bel presto. Riprendi Giuseppe. Yeah, no, ti può chiedere. Poi ci sei andato perché ieri, no, Battini mi ha trovato, Coso, Antonello, quello di Fusaro, mi ha chiesto di te, ho detto se te l'ho visto, ho detto qua, sono da parecchio, c'è Tavarello, guarda, se lo senti, dilli che lo sto cercando. Sì, sono andato, Giuseppe, grazie, sì, era per quelle antenne che volevano arrivare, voleva sapere. Antenne, sono arrivato un paio, volevo sapere alcune cose. Sì, grazie, sono passato. Infatti mi ha giubilato un po' GBL di pratica. Non ha male, ma con BL va più, anche non sarà ne lo uso più. Gli ho chiesto. Con le macchinette non ce le avevano? No, dopo no, l'MP5, quello lì, ecco, mi ha sparato, dice 55 euro, ecco, ho detto lascia perdere Antonello, te lo tieni, ecco, ma ho preso tracciato, ho detto no, lascia perdere, non mi serve più. Io l'ho tracciato, Giuseppe, io sono a Cagliari, avanti ieri, sono passato a Pesaro e c'aveva gli MB+4 e gli MB+5 e ce li aveva, l'MB+4 a 39 euro e l'MB+5 a 49 euro, ma cosa è di zen? Ho preso una buta di PL, 1 euro l'uno, capito? 1 euro l'uno di quelli buoni, in battilite. Ho preso una busta da 10, 1 euro l'uno, 10 euro 10 piede, lui li vende a 2,50 euro. Capito, scusi, vabbè, comunque, grazie a Dio, non mi serve più niente, vabbè che lo sto accendendo poco e nulla, e poi quando ci vediamo per piccare, andiamo a berci una cosa, come i vecchi tempi, così almeno, che sono molto senza averti. Ritirato mi sono, Giuseppe, non sto più da nessuna parte. Si lavora e boh, lavoro a casa lavoro. Non ho più tempo di stare, sono impegnato un bel col lavoro, un incarico particolare e c'ho un po' di cose da fare anche a casa, non solo lavoro, anche a casa. Quindi domani me lo portate per regista a farmi tutte le relazioni. Perché se no invece fumare c'è lavoro. Perché non ti lasciano mai senza pace. Va bene. Dai signori, io mi sposto, non so, su 5, su 10 a qualche parte, faccio due chiacchiere e poi me lo vado a letto. Ok, buonanotte a tutti. Ciao Giuseppe, ciao Antonio. Ciao Cla, su 5 mettiti al limite, così non mi fai ammattimento a questa macchina che sono adesso. Ah, 5. Vabbè, posso usare anche l'altro a bassa potenza, non c'è problema. No, cos'è che è quello che c'entra? Sto usando un samurai adesso, che siccome con un samurai entri appena. Quindi è per quello che ti ho succedendo, siccome lo sto usando per le... che non è roba mia, per le... quanto dura in trasmissione. Dopodiché magari con il mio non ti sento di avostare, con il 2009, perché sei sotto ancora, ma questo è più sensibile. Va bene, c'è anche sul 5, dai, non è lo stesso. Il prossimo mese già possiamo parlare anche nel canale a fianco, che mi sta arrivando l'apparecchio nuovo. No, uso il dato con 5 watt, no, non mi senti con quello. Questo magari è sempre potente e quindi fa del casino. Dai, mi sposto sul 5 allora. Ciao a tutti, buonanotte. Alle prossime faccio due chiacchiere, un attimo con Antonio e poi me lo vado a nanna. D'accordo, ciao, grazie. Avanti Giuseppe. Ciao Cla, buonanotte, buon trabacco per domani, dai. E hai capito Antonio com'è? Caffè tutti io, Macchi. Adesso mi ho ordinato la parecchio, non speriamo che arrivi, cazzo, solo quello. Almeno me lo utilizzo a casa. stai zitto, non mi farà da parecchi perché va. Allora, mia sorella per regalo di mia madre, no, ha fatto il 25, ha fatto gli anni, mamma, no, e gli ha mandato il regalo dall'Australia e ancora non è arrivato, gliel'ha spedito il 3 di gennaio, il 3 di gennaio, senti la scena, e arriva la raccomandata, tutto quanto, dice guarda il signor Pinna, perché le cose l'ha messo a nome mio, no? Dice la dogana l'ha bloccata, ma so quale motivo, perché non lo so, adesso è fermo alle porte di Milano, e quanto ci vuole per arrivare qua a Sassari, e adesso dobbiamo fare i controlli qua e là, adesso guarda che non è una bomba, mi guarda, io posso anche dire cosa è un fornetto, adesso adesso non è che sia così che fa scoppio, no, è un fornetto normale che costa 60 euro, adesso non ho capito, e vabbè adesso gli ho fatto la raccomandata tutto quanto, con questa lettera mi hanno mandato, adesso aspettiamo quando arriva. Ciao, mi vai arrivati per comprare, è che quando è roba di fuori la dolata blocca lo stesso, ho capito, per sapere il valore più che altro, non è che c'è per niente quello delle... avessi pagato tutto, capito? È come se tu di un baracchino a fuori gli hai pagato, per lo sgolamento devi pagare, per dire, ma sono 10, 20 euro quelli che sono, devi pagare, e allora se le tomate, cioè quelle di non trovare, se l'ha mandato, ha pagato i soldi della dogana, sono mai bloccato, capito? Se lo controllo, non fanno le cose bloccate, te lo mando direttamente, non è niente di preoccupato di quella, a tutti i dimmi. KP2 ci sei. Sparito il KP2. No, ma non è il fatto di quello, è il fatto che dice che questa cosa qua non hanno spedito. Ci mancava il foglio della tipo fattura, capito? Non gli hanno mandato la fattura, capito? Oh, Antonio. Vabbè, già gliela mandano, stavano aspettando magari quella, te la mandano a casa con l'attrezzo, non è quale problema, non ho capito. Non ti preoccupare, già te lo mandano a casa, era un mese e mezzo, quello prima ti arriva a casa tua. Lo so. Sì, vabbè, quando arriva già lo prendiamo, io lo devo ti dica. Altro problema non ce n'è, adesso stasera, qua, oggi stavo uscendo fuori testa con il televisore che gli ha regalato mio nipote, no? Quello da 24 pollici, quello grande, quello schermo. Quello grande, capito Antonio? Quello non è fatto usare, non è problema, che difficoltà c'è per vedere 24 pollici. Comunque ci ho visto che è una cazzata usarlo, quello che ci ho io in cameretta, che è grande, che è 20 mi sembra. Sì, ma il fatto che quando fa la ricerca, allora, quando fa la ricerca per i canali, non te li fa dare, capito? Non c'ha né cosa Italia, Germania, non ce li ha questi stati, capito? Se no l'avrei fatto direttamente con quelle cose lì, capito? E non mi fa, l'ho dovuto attaccare il coso, l'altro, quello... il cazzo schiava quello che c'era prima, attaccarlo lì e me li dà i canali, con l'altro, con il televisore normale non mi fa fare la ricerca, capito? Non mi fa entrare né Rai 1, Rai 2, né Rai 3, né Rete 4, né Canale 5, Italia 1, tutti i canali che erano mobilizzati manualmente, non me li fa dare, capito? Se non fa la ricerca di TV è logico che non ti ricerca, devi fare la ricerca di TV, se fa la ricerca normale, quella che vedi l'effetto neve, è logico che fa la ricerca normale, non ti fa digitale, per fare digitale c'è scritto di TV. Non lo so. Adesso gli ho attaccato il decoro normale e me li dà. Adesso se la usa così poi quando... perché le marche e il coso un Samsung, capito? E dunque è buono di marca, cazzo, ce l'ho da domenica, gliel'ha regalato domenica quando ha avuto mio nipote e gliel'ha passato tutto quanto, gli ha fatto la ricerca manuale e gliel'ha trovati piano piano. Però il problema di questo televisore qua, quando sposti un canale, vai su rete 4 o canale 5, dopo 5 minuti se ne va in inglese, è capito? Diventare il menu e mettere in italiano o in inglese, che c'è fa? E memorizzarlo naturalmente, se no è inutile, cazzo. Adesso Nico non c'è riuscito, stasera è venuto mio fratello e non c'è riuscito a sintonizzarlo. Adesso gli ho provato a mettere quello d'accordo, ho visto che li prende tutti i canali, poi un altro momento se non mi tocca portarlo d'accordo. La Samsung chi ce l'ha? Franco Enna? Ah, già te ce l'ho conto, lascia stare a potendine, mettici, lasciaci un decoder e basta. Questo è un decoder serio, che ce l'ha a provare con decoder con la carta e gli lasci quello, è serio, e te ne fotti i coglioni. Lascio quello lì da adesso, vediamo, vediamo un po'. Adesso vado, bevo un po' di coso, di chinotto, a vedere se riesco, a me dice che chinotto fa un po' che rimane amarognolo, mi fa passare il bruciore, capito? Limone ci vuole, fate una limonata, è più che il bruciore dello stomaco. Limonata? Limonata, sì. Ti fa una bella limonata, senza zucchero. Siccome la limonata acerba, quindi contrasta il bruciore dello stomaco che c'hai. Dopo 10 minuti ti passa tutto. Cappa. Uia, casino, ma no, non so cosa che so fare, sono inventarmi qualcosa, qualche lavoro, che non so cosa cazzo fare, inventarmi qualche lavoro, trovare qualcosa, se no qua rimango a cura terra. Quello che fa, quel tipo di, cioè, mi consiglio di Milano, va alle poste e paga quello che devono pagare gli altri, si fa 10 euro all'ora, quindi figurati a voglia, che se quello ci mette alla posta 2 ore, sono 20 euro che si fa, fa che ci abbia 2 o 3 clienti e si fa 50-60 euro alla di. Sì, ma il discorso è quello che vai, trovalo tu, qual è il coso che devo andare io dai clienti, dalle persone e dire ma gli serve qualcosa, vado io o no? È una persona anziana, per dire adesso tu pensa quando tu vai dal tuo fratello che tu devi andare a SIAE. Fate i conti che fai, 3 euro di fila, sono 10 euro all'ora che quello prende, quindi sì, tuo fratello in teoria ti dovrebbe dare 20 euro per fare, per fare una giornata di karaoke, più pagare il karaoke, perché così, la fila di questa paradura la fai tu, no, per dire, se conosci quante persone ci sono che non vogliono fare, oppure non vogliono fare la spesa, chi va tu a fargli, non basta chiedere, non ci vuole niente, no? Quante persone ce ne sono che non si muovono a casa? Dici, guardi signora, lei mi dà 10 euro l'ora e io gli faccio la spesa, non ci vuole molto, posso andare al macellaio, al supermercato, basta che lei a me mi dia 10 euro l'ora, prendi una frutta di pino, un motorino e gli fai la spesa. Gli metti, per dire, 3 euro di benzina che fai a capire, prendere 10 per dire al supermercato, ma secondo che spesa fai? Vai in macchina e gli porti le buste sopra, 10 euro ora sono, tutto in nero. Adesso lascio, il fatto che io non so dove si fanno questi volantini, capito? insomma avrei fatto un po' di volantini e li avrei messi nei supermercati e li avrei consegnati a persone a portare la spesa a casa, capito? Bisogna mettersi al lavoro, non è che sia così facile, cioè se uno si mette al lavoro i soldi li faccio, ma quello c'è anche ragione che c'è andato, ci vuole entrare avanti. Buonasera a tutti, sono entrato solo per un saluto perché stiamo cenando. Ciao Antonello, ciao Giuseppe. Ciao Marco, buonasera, ben sentito. Ciao Giuseppe. Uia, sempre così va avanti la storia qua, l'Italia è messa male, molto male. Vabbè dai, non rispondo che sto mangiando, ciao di nuovo e ciao a tutti. Ciao Marco. Se fosse solo quello Marco, se fosse solo quello non ce n'era problema, ma il fatto che siamo a coso, a culo a terra noi, altro che stiamo inventando qualche lavoro giusto per risimolare qualche spicciolo, giusto per tirare avanti, se no è un casino. Avanti a Tonè. Ehi, dimmi Antonè. Pensavo che eri caduta. Fai rimolata, non te la fai. Fatti la rimolata veloce, vai. E così me la puoi... Tra poco, poi riesci a prendere il zucchero, però se non si è fregato, non c'è la fermata di girirla. Fatti una bella rimolata, su cosa? E vedrai che per un rutto di russo fai. Dopo 10 minuti senti la... È come bere la mazzutti e ti scala lo stomaco. Vabbè, dai, adesso... bevo un po' di quel coso là, un po' di quel chinotto, vediamo un po', dai. Bevitelo, allora, ci vai a capire, mi sto bevendo la mattina, così mi riprendo un po' che ti dava freddore la mal di gola. E vabbè, dai, 5 minuti ci sono qua. Ok, ma Marco sta mangiando, quindi fa pure. Poli e rubi. Guadagno credo onestamente, lavorando come nigri, per quei due pochi spiccioli. Hola, attenzione al break. E ha registrato il break, adesso ti facciamo entrare. Stavo dicendo, tu riportano al piccolo di un condominio, se c'è un condomino che non paga e gli altri condomini devono tappare e questo condomino si gratta la fava, non lavora e sale dipendente degli altri, come lo chiede, come lo chiameresti? Mamma mia, non ho parole, ti ho capito, facciamo entrare il nostro collega, avanti a tu. La parola giustessa, approfitto. Io sono col DAC, non sono col Kenwood, questo è il DAC, come quello che c'era Walter, il Marche 10, tranne più 3 su Perside, che vate sono 25, adesso gli ho messo la manetta, la veglia nei culotti grandi. Avanti, Crode, lo senti a Antonio Metal? Forse lei, certo che lo sento, ciao Antonio. Aspetta che c'entro un attimino la frequenza che si sta spostando sempre, ci metto un bel look e così non si sposta più. Sì, capito, si chiamano saprofitti, io non riesco a capire. Il problema è che vantarsene di essere saprofitti, è la cosa peggiore. Oh, tu. Senza te lo sei, è favoloso, adesso non ho voglia di cambiare cavo, attaccare il cavo all'antenna, solo lo so anche io, ma lo sto usando in VHF, favoloso, esce molto molto bene. Vedi Antonio Grode, anche tu mi puoi usare sette te lo sei anche in 3x9, lo sai, quanto esce bene, metti Michelin a massimo, anzi no, al massimo no, a 5-6 e il compressore inserito. E poi me ne dà la risposta, soprattutto con l'SM20. Oh, scusa appena. Ufa, è meglio qua, io adesso 700. Ciao anch'io. È un l'altro giorno me l'hai detto che esce meglio del 7000 e io non glielo cambio, in macchina lascio questo. No, oh, ma non fare l'errore di cambiarlo, mi ha fatto Fabrizio, che poi si è pentito. 706 come modulatore è molto meglio del 7000, ma due volte meglio. Ma lo dico per esperienza, perché io l'ho avuto in macchina, l'ho sempre avuto, questo è il terzo che compro, quindi è un'ottima radio per la 3x9. Avanti Gianni Opiru. Sant'Antonio, mi senti doppio rullo a questa parte. Io sono immobile, ma non sto neanche tirando molto, sono intorno ai 10-15 km, quindi non esce molto, però esce bene questa ragazza. Gli ho messo lo stilo di 10 metri allungato al massimo, due colpi raccordatore, 1-1, una bomba è. Ma con cosa sta trasmettendo? Automatico del cofano, e quindi immaginate tu un impianto ad hoc, funziona perfettamente, va molto bene. Io ce l'avevo, non avevo l'Audi, avevo proprio il fontanestra Ibe, e c'avevo davanti l'Antenera 27 e in coda c'avevo la NR770 per le V e per le U, perché c'avevo il quadribanda, e ti dico che era una cannonata, andava benissimo, tutto l'impianto ordinato, senza nessun problema. I watt erano sempre a manetta, sempre a manettone, e funzionava bene, non c'è bisogno di amplificatore né niente, non prende spazio, è una bella radio, ben visiva, quindi funziona perfettamente bene. Così è Crowder. Quindi funziona bene anche in AM, se tu dici, boh, io non è che l'abbiamo mai provata. Non senti Antonio Metal col 706 in AM? No, non sto sentendo, è che è basso di segnale. Oh, uno di questi giorni ci provo anch'io, dai, a usarlo in 27. Aspetta, appena che sto un po', guarda che adesso sto aumentando, adesso ce l'ho a 7 le rete power, aspetta che sto uscendo da un fosso qua. E già mi ascolti bene tra un po', altro, non ti preoccupare che sono quasi a Sassari. Capito. Vabbè Claudio, da lì è torre il controllo. È normale, no? Claudio, è come, per me è come che ti ascolto in FM, non cambia niente, capito? Cioè per me sei in 2 metri qua, no? L'emissione è perfetta, capito? E a me come mi ascolti? E 9.30. 9.30 rettilineo qua, Usini, discesa mola fa, a bomba. Capito, va bene. Andare, sono liscio, ecco. Va bene, vabbè, questa radio è ottima, che come dice Vittore, quindi. Io te l'ho detto, io tiro la terza che prendo, e ti ho detto che se ne trovo un'altra, me la prendo di scorta, capito? Invece l'857 l'ho mandato via, no? Esce male in AM, è vero? No, non mi piace, non mi piace. Anche quella che va Fabrizio 7000, anche in VHF, la radio molto bassa, no? Ma quando ha messo l'altra ha cambiato la giorno e la notte, capito? Ha cambiato la giorno e la notte, cazzo roba di colpi sto prendendo Antonello, minchia, c'è un'armonica allucinante. Allora, lo dato 40, lo bonga a manetta, madonna santa. Dimmi una cosa, ma non hai capito che sono da mezz'ora che sto modulando col 700C? Guarda che esce una bomba, io me ne sono reso conto subito che ne vale la pena. E visto hai? E se sei col 706 sei a bomba qua. Ma bella l'emissione, mi capito? Ehi, già lo so Anto, ma io lo stavo usando fino a poco tempo fa, stavo usando solamente questo. Guarda, c'ho il mic gain che è a 6 e l'RF power al massimo. Ho 1.1 di, forse 1.2 di stazionaria, perché sta avendo un po' di problemi con l'antenna, però va che è un piacere, alla grande. Guarda, adesso ho messo l'RF power a palettone, guarda un po', Claudio, sta saturando. Assolutamente no. Ma il compressore sinistro ce l'hai o Crowder? Il compressore non è a questo, che compressore ha? Ma cosa non è a che ce l'ha? Questo non è a, ma vedo Claudio quando dice le cose, guarda c'è scritto compre, Comp, c'è scritto GMP, pigia quel pulsante. Guarda, adesso l'ho inserito il compressore, Claudio. Cazzo, la giorno alla notte, pigia tu. Dove è GMP? Ma stai dicendo sul 706? Nel frontalino al 706. Guarda anche dove sei, che memoria sei, sei per sei, leggi GMP, c'è scritto, pigia, pigia, e ti appare la scritta Comp nel display. No, allora devi fare M4 Comp, devi premere, io l'ho inserito, buona e clave. Buona, buona, devi andare nel, dove c'è scritto M4, e poi leggi Comp, pigi e ti appare la scritta, così è scritto. Ma sarà questa, guarda un pochettino, hola, hola, hola. Hola, hola. La mazza dei nevari, ma... E sta spingendo di brutto. Mi avete detto una cosa nuova, non sapevo ci fosse. E invece la GC che cos'è? La modulazione, lascialo perdere, lascialo così. Anzi, lo puoi mettere anche se entri nel menu, vai nel mic, mic 11 e mettilo a 5 anziché a 6. Quanti ne sbattina di watt adesso questo manettone così? Quanti? Quanti watt tira fuori, così a pieno? Ma quanti ne fate c'è una M? Sono solo pochi, no? Siete buchi, io sono buchissimo. Ma io so che lì è da un kilowatt, ma non è mezzo, ma lo siamo innaffutti, capito? Poi, già va bene così. Intanto io sono contrario, già lo sai che ammasso io, sempre. E tu lavori in quel RP. Doppio rumore riprendi, hai visto che cambiamento il crode? Ehi, ma la radio non è chiara, cara. È meglio che abbassi il macchinino un attimino. Ma chi io o lui? Adesso glielo facciamo abbassare, ci sei nel mic 11? Ehi, questo qua è a 5, guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Adesso un minuto. E io ce l'ho a 5, doppio rum, come mi ascolti col compressore a me? Se va bene la radio, dai. Ehi, ehi. E immobile non puoi avere neanche chissà che cosa, amici. Sono i rumori della macchina, tutte le cose, è un casino, capito? Qua io ti devo dire la verità, rumori non le sento per niente. No, sto già silenziosa questa macchina. Bocca una bomba e quello stile della quantenne, sempre quelli sto usando adesso. Vanno bene, vanno bene. Vediamo Antonio, a 4 l'hai messo tu. Sì, aspetta, stavo facendo TVA, abbasso un po'. C'è il compressore inserito e mettilo a 4 e vedrai che va più che bene, più che bene. Ho abbassato la potenza anche, guarda un pochettino com'è. Ho aumentato la radio. Hai visto? Esperienza ce l'abbiamo fatta con queste radioline così. Va benissimo, e così lo tenevo io. A 4 il mic 11, il compressore inserito, potenza intorno ai 20 watt. E va alla grande. Molto meglio dell'850, Anto. No, non esageriamo, dai. Non esageriamo, io non ti sei sentito allora. No, l'850 è una bomba, dai, non me lo dire questo qua. Venduto te l'hai qua l'850. Io sì, l'ho versato per il 3000, tutto le volete. Vabbè, là. Ormai sono radio che stanno invecchiando, conviene le facce da mezzo e via. Ripeto, a me mi rimasto solo 440 di vintage. Ormai tutto quanto ristrutturato a casa. Io mi è rimasto il 430, il 430 e il 140, gli altri sono tutte semi nuove. E basta, cosa viva. Perché non sei convinto a tu che stai uscendo meglio dell'850? Non so. Mettiti le cuffie e passa con l'850 e c'è il Moni e poi ti metti le cuffie e ti ascolti col 706. Se me lo dici ci credo. Comunque strano, stavo facendo TVI, stavo creando problemi. Ma con 706? Con tutto, sì, con 706. E comunque dovrebbe andare bene adesso, dai. Non sapevo questo del compressore, non lo sapevo. È l'unico attrezzo che c'è il compressore in AM. Come quadrimanda stai dicendo. Ma tu, ho detto 5-7, si è liberato. Eia, forse lo vuoi vittura che... Mamma mia, me ne sono dimenticato, eh. Ah, vabbè, non ti preoccupare, che spero che ti abbiano dato il giusto. Ti posso chiedere, a quanto l'hai dato? 5. No, a 5 te l'avevo coperto io, certo. Vabbè. E intanto è quello, mi quanto lo volevi dare? 5,50. Non è che lo puoi dare di più, no? Non è così, cla. No, non è quello, negativo, il prezzo suo è quello lì. Però ti ripeto, siccome mi avevi detto che era nuovo, ci tenevo ad averlo, mi dispiace, ma l'ho venduto fuori. Versatolo, ho preso il nuovo 7.100, se lo sapevo lo avevate affannato, qua in questi giorni ho fatto un sacco di manovre, non ci ho capito più niente, ero sempre lì portando pacchi a manca a destra, e vabbè dai, ho preso il 7.100, mi è arrivato oggi. Se l'aveva anche scritto, tu ogni volta devi vendere qualche apparato, fammelo sapere, perché so che li tratti parecchio bene, quindi... Capito, non c'è problema, per te sarebbe stato un affare, perché secondo me se glieli davi in contanti, senza fargli permuta, ti facevano anche uno sconto in più per l'apparato nuovo, e avresti accontentato anche una persona, e vabbè. Mamma mia, Cla, perché non l'hai detto, Gabbo? Cioè, me l'aveva detto lui, ma me ne sono detto. E poi mi è costato anche 15 euro di spedizione, capito? Se no te l'avrei portato io di persona. Cilindri, vabbè, pazienza, ma è andata così. Nuovo, io non li tiro mai gli apparati, già lo sa Claudio, mi. E poi chiuso in frequenza, non era mai toccato. Non mi piace smanettarli, capito? Questo che ho preso me l'ha aperto già Ascar di Roma, capito? È già aperto da loro a livello software, ma io non ne tocco però. Io sono contrario, poi quella lì non era mai andata a manetta di potenza, mai. Ma però ricordatene per le prossime volte, qualsiasi cosa, siccome io sto comunque cercando di costruire una stazione, adesso c'è una basic, se devi vendere qualcosa fammelo sapere sempre. Sì, vabbè, adesso quella dei 1200 sto dando, ma non... quella lì ne voglio molto, capito, no? Quella è una radio più per intenditori, gente che fa conto. Ma c'è un pellegrino con ignoranza, vuole al contrassegno, ma non gliene mando così, perché ho paura, capito? Sì, Suga, ma guarda che cazzata che ho fatto, ho fatto una cazzata enorme, Cla, te le immagini? Sì, vabbè, non fa niente, tanto non è quello il problema, figura. Io non lo sapevo. Pensavo Antonio si era fermato, sono commutato con il 430. Vediamo un pochino. Antenna sempre a nord, con la speranza che mi ascolti. Oh, Antonio. 9.40. Vabbè, io sono alle luci gialle, non è che sono molto... Adesso mi dovrebbe andare bene l'antenna a nord, capito? Io sto scendendo, io non ci dovevo scendere mi stasera, mi ha chiesto domani devo accompagnarla a lavorare e poi me ne ritorno su. Faccio un giro, forse vado al Walter domani mattina, un po', e poi me ne risalgo, capito? Vai via dalle luci gialle, se no ti faccio saltare tutto. Isso Maria, chi è? Lo più lungo abiti. Di vicino, là. 960. E abito, diciamo, di buoni, più o meno, là. Qui a Baldella, quella zona lì, alla fine. Sì, ho capito, là. Sotto il rifornitore, là. Ripeti, Claudio, come se ti sento qua nel fosso. E io mi sento nel fosso, sono che ci facciamo sentire, c'è la penna sopra, è proprio in mezzo, proprio puntata verso il sorso, diciamo. Ma lì va? Nella valle sono, là, dove c'è un fiume qua, cosa c'è? Ma dove sei andando, da che parte sei andando? Ah sì, non li sto andando. sto facendo la salita adesso, Moguleto, San Camillo e Bassara. Capito? Adesso sto risalendo un po', quindi mi dovrebbe fare bene Claudio. Perché non mi sentivi prima? Vabbè, tu sei sempre a fondo scala, Claudio! Uia! Sì, già stai andando bene, 9:20 sì, da. Io pensavo che stessi verso Sassa. No. Però ho fatto la bretella, capito? Una bretella, poi quest'ora si viaggia bene, no, non c'è traffico, niente. Vabbè, è la notte. Poca gente ha cosa di uscire, dai, non lo prendo più bene. Stamattina c'era 5 gradi qua quando sono uscito anch'io. Ma la cosa che freddo non le sta facendo già. Ma la cosa freddo, 9 gradi adesso sta segnandomi. Ui, se rimane così è una pacchia, questo inverno. Di che freddo non ne ha fatto, Bianco, ma gelate visto ne abbiamo, qualcuna. No, gelate non la verità. Sì, ma stamattina c'erano 5 gradi, non sto scherzando. Io sono uscito alle 8:10, da casa c'erano 5 gradi. Lo so. Ieri sera eravamo con Fabrizio a Izzeri e c'erano 5 gradi ieri sera. Poi stamattina non ho controllato, ma sicuramente ce ne sono stati tre. Ma comunque dai, non è niente, no, claro, non è... Sì, a parte le piogge, però non è che... Fino ad ora, non è che abbia fatto questo grande freddo. Io stamattina quando sono uscito c'erano 6 gradi, verso le 6:30, così 7:20, però già poi durante la mattinata già si è messo un po' a posto, si è messo un po' a posto perlomeno nella zona giù di Santa Maria Covina, si è salita la temperatura sino a 9-10 gradi, poi verso mezzogiorno c'erano 12 gradi, quindi insomma non ce n'era freddo, dai, avanti Crobbe. Ciao Paco e Selle, dai, riprendo e vi saluto. Ciao Antonio, buonanotte, ciao Claudio e ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime che mi stanno chiedendo le sale cinesche. Buon 144 e risentirci alle prossime. Buonanotte, ciao. Ciao Antonio, buonanotte. Ciao a tutti, ciao Antonio, ciao Claudio, ciao Gianni, in Quadrix per un saluto, ciao, buonanotte. Ciao, un bacio Marco, un bacio, dove sei tu? Aspetta, avete parlato in due, dimmi a tu. Ti sto dicendo un bacio, dove sei tu, ciao, un bacio. Grazie. Ciao Marco Cundò, buonasera, ben sentito, buon Quadrix. Non toccare niente così da questo settaccio che abbiamo fatto, lascialo così, siete dosi che è una bomba. Ti ascolto, se mi sento qua, con 4:30. Meta, dove sei arrivato? La vita, Stefano, mi fermo a me, facciamo fare una spaghettata, cosa dici? La vita, sì, ti arrivano benissimo. Aspettiamo che arrivi Antonio a casa e poi chiudo tutto. Avanti già. Comunque lo sento bene anch'io Antonio, Antonio, complimenti, una bella radio. Va bene, adesso la lascio così. Ma chi mi sa che a 4 la blocco così questa altra. Poi vabbè, ovviamente se la usi in FM non c'è bisogno del compressore. No, va bene così comunque, dai, ti fai sentire. Che antenna stai usando, hai detto? Una carica di frusta, di quella. E ho capito, ti fa la frusta nera. Pensando a questioni del popolo. E lo so, ci va un po' di gente, dice che si mangia bene e si paga poco. No, già, si mangia un bel, si paga un bel. Sì. E vabbè, ma se ti metto nello sfizzo una volta tra amici te la fai una cena e ci la abitano in colorina. Guarda, per mangiare l'avvitto ci vuole un minimo dalle 35 alle 40 euro a persona. Ma te lo dico perché noi abbiamo fatto una cena di lavoro, ci sono uscite a 700 euro. A quanto dai, buon corretti allora e buon rientro. Avanti qua. Ciao Anto, ci aggiorniamo dall'altra parte, dai. Ciao, buonanotte, alle prossime. Ci sentiamo domani, ciao. Quali gocci c'è con biglietti già? Cappa, dai, ci sentiamo. Anche io li stavo prendendo, poi come mi sono allontanato il canale non li ho più sentito. Era troppo vicino prima. Cappa, vabbè. Probabilmente era anche attaccato perché mi incollava lo Smith. Sento un'armonica, un bel alta e queste non si deve sentire niente, però la sento, vabbè, che si va a Chinti, fracassabbi, meglio qui va, va bene, tanto, quando mi dici Big Bag, io chiudo. No, ma quello lì sono di Antonio, quello c'è per riparazione presa di Gian Paolo. Di Gian Paolo? Sì. È un'armonica allucinante. Lo sento, Santiago 1, Santiago 1 lo sento. Chiaro. Cioè non di splatter, ma come se fosse sul canale. Esatto, un'armonica. Anche io abbiamo una via di una finita. Ecco, ma manco io, ho cercato solo squeci, ho agito diversamente. Sì, vabbè, quando anche si attenuo, è lì un abbasso il tuo segnale, no? Infatti a me era 6.930, più quindi, 25, perciò non è un problema. Fortunatamente non mi copriva Antonio, perché Antonio era sempre superiore. L'ultimo passaggio che ha fatto era segnale 5, ma io dove abita lui, per dove abita lui sono coperto, non è che ci abbia una bella visuale. Quando dall'altra parte invece lo sento molto meglio, però già lo sento lo stesso, mi sento lo stesso, perciò già va bene. Non è fastidiosa la cosa. Hai visto lo 706? Io l'avevo già usato, quindi so quali sono i difetti e i pregi. È una bellissima radio, quella piccolina, ma consistente, 27 funziona bene. È l'unico quadribanda che c'è il compressore in 27. In 27 AM praticamente, capito? Ad esempio, 850 in AM il compressore, il processore non funziona. 7004 invece funziona, perché è sempre incom. E ci sono alcune radio che non funzionano, anche grosse in AM. Lo so. Diciamo che sono radio anche molto strette, molto piccole, che vanno bene a mettere in macchina, quelle lì sono a portata di mano. Poi così, non c'avevo l'audio, non c'avevo quello lì, il frontalino davanti, c'avevo davanti la frusta, quella che ho dato a Pinocchio, e dietro c'avevo la bibanda, capito? Avevo messo quella lì. Se quell'antenna andava bene a chi le dà? Ehi, c'era Pinocchio, vai a toccare, non aveva nessuno, no? Non aveva nessuno, non c'era lui. L'avevo staccata di là con la macchina, ma che si usa, si rapporta, boh, non me l'ha pittoriata. Vabbè, mi ha regalato una radio, il 5024, il base me l'ha regalato lui. Quello è bello lo stesso, l'ho visto su internet in vendita, sono per comprarmelo. già, 150 no, ma 120 già si rigola. Sono due cellulari, funziona molto bene, quello è il 5024, è il Tokai Base, è il Tokai Base, terza marca, terza sigla, solo c'è scritto B, che significa base, c'è scritto Zodiac, B 5024. Io ho marchiato Zodiac, diciamo invece che Tokai, ma si appellava se si mette 6.000 e lo sappiamo come sono, le fa una casa per marchiare con i versi di marchi. Tokai è Zodiac, lo fa la Zodiac, che scrivono Tokai, che scrivono Zodiac, cioè è uguale, leggo io il base, è Zodiac, c'è scritto Zodiac B 5024, ed è Tokai 5024 base, però, capito, lo fa la Zodiac, non c'è problema. Quello è il Tokai 24, 23 più l'11 alfa, come il Tokai. È tutto uguale, solo che base. Tutto uguale, è uguale, stessa cosa. Non ha M, non ha niente. C'è il cifralino, lo stesso, anche quello lì. Cosa c'è lui? Il tono, che può regolare il tono della voce. O tonalità bassa, tonalità alta. E c'è un altro macronometro che c'è la lavante, un modo parlante c'è. È come il Galaxy, il Galaxy c'ha una colonna ma stereofonica. Si conferma. Non mi sta salendo la tentazione di prendermi un Galaxy. Ma se ce n'era uno, cazzo magando gusta niente. Se stavano prendendo uno, va a 351, io gli ho scritto, se me lo prendi qualcosa in meno, ci possiamo mettere d'accordo, vai che me lo prende. Ho già i soldi, gli ho scritto, se vuoi, ma non mi ha risposto. 350, se mi metteremo un po' più giù. No, ragazzi, il valore suo proprio, ma deve essere bello, 200 euro, va bene, 200 euro, 220, ma non di più. Io li ho sempre acquistati e venduti per 200 euro, sempre in ottime condizioni. Perché il prezzo suo 200 euro, ma al massimo 220, ma non di più, proprio 200 è il prezzo suo per me, 200 euro è il prezzo suo, che poi di righe, colte, non colte, senza colte, da coltivare, cosa, gattami una frutta a me, colte, non colte. Una radio che va bene, 27, c'hai tutto, capito? Mi sta salendo l'intenzione di prenderla, mettere un microfono per non stare sempre a usare che sia KF, ma c'ho il DAC 524, uso quindi io adesso ho commutato per avere un po' più di potenza, ma non è che cambia niente. Ma io ho conservato 400 euro, se mi rimangono, lo dico perché se mi rimangono, no? A meno che arrivi qualche, diciamo, qualche sorpresina di casa, di cose, di quello dell'altro, e me lo voglio prendere, un apparecchio base, perché mi manca qua. È bello, bello. Sì, no, ma grazie, per me, te l'ho sempre detto, l'unica radio che mi piace base, gli altri, così e così, anche perché è bello, grande, è nero, lo puoi affiancare, io ad esempio c'ho uno spazio su un angolo, lo puoi mettere anche lì e si affianca bene, è ben visiva come gli HF, capito? Quindi anche all'occhio va bene. Non mi piacciono le radio che non danno all'occhio, assolutamente. Quindi è bello, capito? Per fare due chiacchiere, per nove, per ascoltare, hai tutto, è completo. Sì, è completo di tutto, c'è anche Rosmetro, addirittura fatti un conto. C'è Rosmetro, c'è la potenza regolabile, ha molte bande, insomma. È una radio completa, solo che bisogna trovarla bene, perché il Galaxy ha due difetti. Uno è quello del trasformatore che si fa uscire con l'alternata, e due è il coso, come si chiama, frequenzimetro, che soffre di dei wattirmica, sta sempre vicino 80, 79, fa così, capito? Ma poi per il resto va tutto bene. Infatti così, è così. Va bene, proprio rum. Io me lo vado a nanna, e domani me lo sarei presto, se no mi canta rubucu. Grazie alle due chiacchiere. E buonanotte, saluto chiunque fosse in ascolto, e passo in QRT, poi domenica già al limite ci sentiamo. Ci prendiamo un caffè, ok? Io è tutto già solo in radio, io. Gappa. Andate, ci sentiamo qua, buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao, Gabo Bugnese. Prima era come bassino, no? Poi come è entrato è passato dalla notte al giorno. Ti tocchi Claudio Sparviero, la conosco poco quella radio, è ottima, ottima, ottima. È piccolina ma sincera, un bel quadribanda, un bel quadribanda. Io l'ho usata, ne ho fatto gli esperimenti con quella radio, ho provato microfoni Kenwood, Icom, suo era l'SM20 col compressore inserito, ma è una schioppettata, visto come è cambiato. Però è goffa come radio, non mi piace esteticamente. Sì, sì, già, è piccolina, è una radio da usare a fontana estraibile per fare praticamente spazio, l'unità la metti sotto il sedile, per dire l'unità, ad esempio Antonio c'è un bel impianto con quella radio lì. Metal, capito? C'ha l'accordatore automatico suo nel cofano, con l'umidità nel cofano, c'ha i cavi lunghi che sono in dotazione, il fronte estraibile con la sua staffettina, messo bene, nel BMW, comanda tutto dal microfono, capito? C'è l'accordatore, pigia, PTT, tuffs, lui rulla e accorda. Molto bene per quello, perché non sono ingombranti, capito? Antonio è radioamatore, confermi. Sì, Antonio è radioamatore, c'è chi so. Ma non lo sapevo. Io me lo ricordo che volavo da Ussi prima possibile. No, da Iti, lui sempre da Iti, lui abita vicino a casa di Gianni Giaguar. Ah, da Iti, esatto. E a Senoli cosa ci fa? C'è un'altra casa a Senoli. Ah, ecco, ho capito. Non capivo se si abitava a Sintri, se abitava a Iti, se abitava a Buca. Vabbè, adesso ho capito. Andava, e allora è lo stesso che dico io. Non sapevo però che fosse radioamatore. Sì, un paio di anni, forse un anno, due anni dopo che mi è entrato. L'ho presa nel 92, ma l'ha consegnata nel 93, forse lui l'ha presa nel 94-95, non so. Marco, hai finito di mangiare? Ti stai strafogando? Eia, mi sto strafogando di cioccolato bianco, vabbè via. Quanto ti piace i montanti? Niente, ballo di vero. Io oggi come dolce ho mangiato la torta allo yogurt, ma era favolosa, che solitamente la margherita normale non riesco a ingoiarla, invece questa qua era proprio morbida, buona. Frittelle, frittelle. Un po' di frittelle sono da fare, è periodo. Io l'ho comprato da sera, questo fa la tua da mia figlia e l'abbiamo comprato. Perché avevo mangiato due, non formaggio, formaggio, la cena, formaggio. Io ho detto, preso lì al... c'è un amico che fa il mercatino e ogni tanto ci vediamo lì a Marrisa. Ho aperto il furgone, ho fatto un mezzo a forma di formaggio tipo Gran Anglona e un coso di una gelatina di salsiccia, una fumità, cazzo, questa notte è buonissima. Ma io conto una giusta, ragazzi, ma questa notte non mi gagli a sotto. Ecco la dieta. No, io ho comprato, sai che cosa? C'è presente quella ricotta mustia che fanno indurire per grattugiare sulla pasta? Ah, sono quella bugaretta buona con i gigioni. La fanno a Sentino quella lì, la fanno proprio nella zona della Nura, la fanno e nella nera fuori, se c'è anche una fumicata, e se la mangi così è buona lo stesso, cazzo. Se la mangi così c'è proprio il sapore della fumicata che si rimbiace a me. È proprio buono, veramente buona quella. Ma ogni tanto questa mi dà un pezzo di formaggio, che ho trovato la ricotta mustia, però fresca. Oggi mi ha dato sto pezzo di formaggio che era una bontà. Mi ha mangiato un bel pezzo a pranzo, a cena, e poi stasera ho affettato la salsiccia. Sono uscito da Medai, proprio così sto seccando, mi facendo. Poi frittelle, dai ragazzi, io vi saluto di nuovo, ciao Gianni, ciao, buonanotte, se proseguite buon proseguo, vi saluto tutti che sono ascolti, a domani signori, statemi bene, sono di Caggio a Gandiera, ciao, ciao, avanti Marco, ciao Claudio, buonanotte. Io vorrei tentare di andare a letto prima già, perché ogni volta dico che voglio essere a letto a mezzanotte e poi al computer si fanno l'una, le due, le tre e anche le quattro. L'altro giorno alle cinque ho fatto, una cosa da pazzi proprio. Perché tu soffri il sonno, i soli soffri. Se come me io tiro le lunghe per poi dormire, invece sto il calonca che mi giro, mi rigira dolori. Ho la tosse, come questa notte sto per crepare da questa tosse secca, mi ha fatto uscire gli occhi fuori. Lo ci divora, No, io dormo male per altri motivi, tutto scombinato il sonno. Tu dici, che cosa ci fai fino alle 4, alle 5 al baracchino, ma al computer? A guardare il siti porno? No, a guardare apparati. Praticamente c'è gente che si fa le pippe per il siti porno, io mi faccio le pippe guardando gli apparati, è normale. Sì, vabbè, anche se guardi il siti porno sei un maschietto. No, no, preferisco gli apparati, francamente. Apparati genitali. Adesso metto su eBay in vendita, vendo apparato urogenitale, come nuovo. Come nuovo, sì, come nuovo. Causa inutilizzo. Mai usato. Oh, magari mai usato, no, come nuovo diciamo, causa in utilizzo, vendesi. Vediamo se c'è qualcuno che abbocca. Ma la cosa preoccupante è che poi sul sito eBay ci deve mettere la foto dell'apparato urogenitale. Non è detto, io ho messo in vendita la moto ma la foto non l'ho messa. Ma su eBay? No, l'ho messa su Subito. Eia, anche su Subito, però è meglio sempre metterla, perché la gente, se vede che è ben trattata, è molto più ben disposta a chiamare, ho notato. Invece poi certi non mettono foto, magari trovi la sorpresa, capito? Può essere di sì, può essere di no. E un tipo che ho visto su internet invece ha messo questo Helpex, vecchio come il mondo, tolto dai mondezzai, aveva la, non so se te l'ho detto, la terra sopra, la terra, era privo di manopole, frontalino spaccato, c'aveva, è presente dove sono le manopoline, no? Il trim era quel pirolino lungo di metallo, tutto arrugginito. Ho detto, e beh, ho visto che presa Diamond SI senza skip. Erano le cose, quattro gomme costumate, sporche, fotografate e messe in vendita su eBay, deve essere qualche povero. Era esaurito, era impossibile, veramente rottami. Ehi, rottami, proprio porcherie, poi quel baracchino non era descrivibile, come puoi vendere una cosa, poi ti dice funzionante, privo di microfono, privo di tutto, era di staffa, di cavo, questi sono matti. Sì, sì, è vero, comunque che ritornano sottoterra, perché anche a volte a qualcuno gli è arrivato così. Ah, Ho visto anche un museo, dove ci sono i baracchini tutti antichi, quelli vintage. Ci sono dei siti che fanno vedere tutti gli apparati. No. Qui penso, sono scherzo. Non ma componenti classici, motivi già elencati. Altre volte. Voglio che tempo, sempre che duri la 27. E poi ce ne sono andati di nuovo però. Vabbè, Claudio ci è rimasto, io ci sono rimasto, sono andati e basta. Ma penso che ripresa, perché se c'è nel cuore una cosa riprimi. E poi mi basta poco. Ma lui ha l'accesso al tetto? Non so. Non so niente. Non so se c'è l'accesso, ma lì è una zona che diciamo le antenne non vengono bene, perché i suoi muri sono vecchi, capito? Se ci mettevano nell'antenna leggera come questo, almeno Sassari e dintorni riesce a parlare. Sì, quello è vero, infatti. Antennino così leggero. Sì, questa è leggera come un'antenna TV, allora questa pesa con bulloneria e staffa 1,7 kg, un'antenna TV praticamente, VV1 per dire, vabbè rende poco, ma Sassari dintorni parli, arrivi nei paesi dintorni, dai, Usini, Ossi, Muros, vabbè anche Alghero, Stintino per dire che qua c'è la portata ottica. Io senti largo benissimo, non vedi i suoi. Quella volta che ho visto, stavamo scendendo lì verso casa tua, ho visto il mare, casa, tutto libero, ho detto bellissimo, avere una postazione bella a fronte mare o alta sarebbe eccezionale. E poi fronte mare come se proprio che metti a Plaza Mona così, che la casa proprio di fronte, come si chiama Roberto Quadrato. Lì gli ex li fai in estate e li fai con tutto il mondo, perché ti fanno a specchio il mare, a specchio riflettente e parli con tutti. Purtroppo pensa che noi abitavamo, adesso siamo qua, una via di su, abitavamo in via Le Mameli. Dunque abbiamo cominciato, prima via Le Mameli 55, il terrazzo è di proprietà nostra, quindi avrei potuto mettere di tutto, antennoni, mantove, per esempio di polo per ascoltare, ecco, qua non voglio approfittare diciamo, lì avrei messo di tutto, è più in basso, è molto più in basso comunque quel terrazzo lì. Vabbè, ma Marco, diciamo che per organizzare anche lì si vuole, sarei sul tetto e un impolo di un bambolini, se lo tiri dalla cala fumaria al tubo dell'antenna tua e fatelo io. Anche, guarda, io mi ricordo che quel cavo dell'antenna, me l'avevano spostato tutta a sinistra, praticamente io l'ho fatto passare in basso, aderente al muretto, poi va a destra e scende lungo l'angolo del palazzo ed entra, arriva da me. Qualcuno per qualche porco motivo ha tolto i nastri che avevo messo per fissare il cavo e a me ha spostato il cavo buttandolo tutto a sinistra, no? Tutto verso sinistra, e ha agganciato però i fili TV, il cavo TV po' di altra gente che mi ha detto attenzione che se viene vento forte ne straccia tutto. Io non so chi sia, non so se sia il padrone del terrazzo, perché hanno cambiato un serbatoio d'acqua. Non voglio che si tocchi, perché poi se succede qualcosa sai di dove è il padrone del terrazzo. No. Montagnino, Emi. Aspetta, di dove? Dualchi. Di Dualchi. Ma io lo so come non ho messo, l'ho fatto scendere la palla, era sempre legato con le fascette, era strato. Poi ho fatto passare, gli ho messo una staffa nel muro, l'ho fatto passare dietro questa staffa, ha fatto l'anello, ho fatto passare dietro questa staffa e poi l'ho fatto scendere giù e l'ho legato al tubo del pluviale con una fascetta di quelle grosse, di quelle lunghe. L'ho legato lì e poi sono andato piano per piano e mi hanno fatto far legare con le fascette. Uno solo non mi ha fatto entrare e la mia luce. Purtroppo nei condomini, io il cavo se l'ho fissato in alto prima della calata, per evitare così che si sposti, non che cada, che non cade, per evitare che si sposti l'ho nastrato ai pali di altre due antenne TV, il palo che cammina per terra, no? E praticamente hanno tolto la nastratura, l'hanno buttata tutta a sinistra, il cavo tutta a sinistra l'hanno buttata. Peraltro, già, io ho messo sul cavo, proprio nel punto in cui fa la curva, no? Lo spigolo del muro, prima di scendere, ci ho messo un pezzo di tubo di pompa di acqua, no? Quelle rinforzate con la reticella, in modo che anche se sprega col vento non si taglia il cavo. E lì come l'hanno buttato tra sinistra, questa cosa, questo tubo d'acqua si è spostato e è sceso giù. Lo dottore mette a posto, vabbè, che non succeda più. Io quei tubini dell'acqua li ho messi nei tiranti che toccavano alla casetta, diciamo, dell'ascensore, no? E piante li ho messi in alto e in basso, quelli del basso toccavano. Allora ho messo queste pompe lunghe di modo che praticamente, e poi li ho bloccate col nastro per non farle scendere, dai, proprio in punta li ho messo, le ho nastrate tutte. Ho capito. Comunque, per quello che costa, vabbè, però le stazionarie sono terribili, finché la metto io che so, che ho l'accordatore, che la so accordare, ma se è un pivello lì si brucia il baracchino, quello sì. In estate una bomba, 1-1, 1-2, centrobanda, coprivo quasi 200 canali, dai, quasi. E poi come sono arrivate le prime piogge è andata così. Poi me lo so, però ce ne c'è quel difetto. Marco, dai, ti saluto, dai, che me ne sto andando a letto e sono un po' stanchino. Poi non so manco bene, c'è un po' di vedo uscire di cose, ormai. Mi sta mancando la voce. Andare, dai, dai. Ci sentiamo, ti auguro una buona notte e sogni loro, ciao. Ciao Gianni, ci sentiamo. Io ci sono passato prima. Pochi giorni fa avevo quella voce tutta rauca, parlavo così. Mi sembravo Fred Krueger. Va bene. Buonanotte, allora, stiamo.